Atere foki la gigi. Widi yo ho. Widi ye. Widi ye. Mwaye panka wire. Mwaye panka wire. Mwaye pam pam panka wire.